Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Oggi vi portiamo nel cuore dei Paesi Bassi, per la precisione a Rotterdam, in una puntata che si collocherà a metà strada tra le opportunità di ricerca e quelle di impresa innovativa in uno dei paesi europei più interessanti, dopo l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione. A farci da guida nella prossima mezz'ora ci sarà un giovane connazionale startupper che proprio in Olanda ha seguito un percorso prima di ricerca e poi di innovazione, che potrà dunque suggerirvi un modello da seguire. Come sempre, con tanti preziosi consigli pratici, come del resto facciamo qui ogni settimana sulle frequenze di Generazione Mobile. Tutte le opportunità del momento a livello di tirocini e lavoro ce le racconterà Federico Fabiani di Scambi Europei e saranno ulteriormente rafforzate dall'analisi e dalle segnalazioni di Alessio Romeo nella seconda parte della trasmissione. A chiudere ci sposteremo invece in Canada, dove attraverso le parole di un'associazione di connazionali in Nord America vi forniremo qualche spunto utile qualora voleste cercare opportunità a ovest, oltre l'Oceano Atlantico. Prima però torniamo in Europa e facciamo rotta verso l'Olanda. Generazione Mobile. Lo spunto della settimana ce l'offre la recente classifica degli Executive Master in Business Administration del Financial Times. Il migliore al mondo, secondo il quotidiano della City, è quello della Kellogg Business School di Hong Kong, seguito dalla sino-svizzera Seibs e dalla Eck parigina. Al 47esimo posto globale la SDA Bocconi, in centesima posizione la School of Management del Politecnico di Milano. E torna oggi a farci compagnia Toolbox, la preziosa collaborazione del portale Scambi Europei. Ogni due settimane continuiamo a proporvi segnalazioni utili e imprescindibili, nonché aggiornatissime su tutte le opportunità di studio, stage, lavoro e volontariato in Europa e nelle istituzioni europee. Con noi come sempre Federico Fabiani, fondatore di Scambi Europei. Buon pomeriggio. Queste sono le migliori offerte della settimana, selezionate dalla redazione di Scambi Europei. Partiamo subito dagli Stati Uniti, dove la Banca Mondiale ha pubblicato le nuove date per i prossimi stage estivi presso la sua sede di Washington. La Banca Mondiale è un'organizzazione internazionale che si dedica alla riduzione della povertà e al sostegno ai paesi in via di sviluppo. I tirocini sono rivolti a giovani studenti interessati ad approfondire le tematiche economiche e sociali in un contesto internazionale e hanno una durata minima di 4 mesi, a partire da maggio 2021 fino a settembre. È richiesta l'iscrizione ad un corso di laurea magistrale o un dottorato, preferibilmente in economia, scienze sociali, agricoltura, ambiente e sviluppo o altri settori rilevanti, un'ottima conoscenza dell'inglese e una conoscenza di un'altra lingua scelta tra francese, spagnolo, russo, portoghese e cinese costituirà un valore aggiunto. È previsto uno stipendio mensile e un'indennità per le spese di viaggio fino a $3,000, mentre il vitto e l'alloggio sono a carico degli stagisti. La scadenza per le candidature è il 31 gennaio 2021. Ci spostiamo in Giappone, dove come ogni anno la Fondazione Canon mette a disposizione delle borse di studio per effettuare un periodo di studio o ricerca presso un'università giapponese. Queste borse hanno lo scopo di contribuire al rafforzamento delle relazioni scientifiche e culturali tra Europa e Giappone. Si può fare richiesta per una borsa in ogni ambito di ricerca per un periodo che va da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 1 anno. È necessario essere cittadini europei e aver conseguito almeno una laurea magistrale o un dottorato di ricerca negli ultimi 10 anni. È possibile per i borsisti scegliere il proprio istituto ospitante in Giappone e presentare un piano di ricerca concordato tra l'istituto ospitante e quello di invio. Il sostegno finanziario per i ricercatori varia dai 22.500 ai 27.500 euro annui e la scadenza per le candidature è il 15 febbraio 2021. Ci spostiamo in Europa e in particolare a Budapest perché la FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite che lavora per sconfiggere la fame del mondo e raggiungere la sicurezza alimentare, offre degli stage retribuiti presso la sua sede nella capitale ungherese. Gli stage si svolgeranno presso l'Ufficio regionale per l'Europa e l'Asia centrale e avranno una durata che va dai 3 agli 11 mesi. Attraverso questa esperienza, gli stagisti potranno contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e agli obiettivi strategici della FAO per il raggiungimento di un mondo a fame zero. I candidati devono essere studenti iscritti ad un corso di laurea oppure neolaureati. Essere specializzati in un settore rilevante per la missione e il lavoro della FAO e avere una buona conoscenza di almeno una delle lingue FAO tra arabo, cinese, inglese, francese, russo o spagnolo. La scadenza per le candidature è il 31 dicembre. Chiudiamo con un'offerta del CERN di Ginevra che a causa della pandemia di Covid-19 si svolgerà online e si tratta infatti dell'Online Summer Student Program 2021 che si svolgerà tra giugno e agosto del prossimo anno e si rivolge a studenti triennali o magistrali in fisica, ingegneria, informatica, matematica o materie affini. Si tratta di un periodo di formazione di 9 settimane in cui i candidati lavoreranno su un progetto IT avanzato insieme a un gruppo sperimentale seguito direttamente dagli esperti del CERN. Per candidarsi è necessario essere uno studente universitario in corso di laurea triennale o magistrale. È previsto uno stipendio mensile e un ampio programma di lezioni e conferenze da poter seguire. La scadenza per le candidature è il 31 gennaio. Per tutte le informazioni www.scambieuropei.info. Bene, andiamo adesso a conoscere il testimone della settimana. È un giovane imprenditore 32enne, è approdato in Olanda per fare ricerca prima di prendere il largo nel settore startup. Tommaso oggi è in onda per fornirvi un modello molto utile da seguire in uno dei paesi più innovativi d'Europa. Buon pomeriggio, Tommaso Troiani. Ciao Sergio, ciao a tutti. Laurea in ingegneria gestionale, ti sposti in Olanda per la tesi di laurea alla Delft University, dove resterai a lavorare come ricercatore. Perché e di cosa ti sei occupato? Il motivo per cui sono andato in Olanda è perché avevo curiosità di fare un'esperienza fuori dall'Italia. E pensavo anche che forse non ero troppo interessato al lavoro in una corporate. Di conseguenza ho avuto questa opportunità di andare lì a Delft e per i successivi 4 anni mi sono occupato di temi relativi a circular economy, sostenibilità e quindi tutto ciò che concerne l'aspetto più sostenibile. Conclusa l'esperienza accademica, Tommaso, hai deciso di restare in Olanda e tentare il percorso da imprenditore. Allora, perché proprio in Olanda? Perché ci sono molti aspetti interessanti. L'Olanda è un paese dove si parla la lingua inglese, quindi non è necessario parlare olandese per entrarci, c'è disponibilità di talenti, idee e per quanto riguarda il discorso più tecnico, ingegneristico, l'Università di Delft è un'eccellenza mondiale, quindi pensavo fosse il posto giusto. La tua prima azienda si chiama Swabit, in un flash di cosa si occupa? Sì, allora Swabit è un software per creare gruppi di interesse, quindi ciascun utente può scaricare Swabit e può creare un gruppo privato nel quale parlare dei propri hobby, magari cose più serie. E da imprenditore seriale ti sei lanciato in una seconda avventura, si chiama Buy Waste, e in questo caso, anche in questo caso, qual è il core business? Buy Waste è una piattaforma che aiuta le persone, i cittadini, a dare una seconda vita a tutti gli oggetti di cui non sanno più cosa farci. Quindi vecchi cellulari, monitor, libri, clothes. Noi andiamo a casa del cittadino, prendiamo questi materiali e dopodiché ci incarichiamo di dare loro una seconda vita. Prima di passare ai tuoi consigli pratici, ti vorrei chiedere quanto l'ecosistema imprenditoriale di città come Rotterdam conta nello sviluppo di progetti di business, a livello generale. Per un business di successo ci vogliono 3 fattori. Ci vuole un'università che produca talenti, ci vogliono delle grosse aziende che possono anche servire sia da clienti ma anche per acquistare start-up, e ci vogliono start-up, ci vogliono idee, ci vuole un sistema giovane e anche veloce. Questo è il caso di una città come Rotterdam, ma più in generale per tutta l'Olanda. Arriviamo alle tue dritte. Innanzitutto, qual è l'offerta di posizioni nell'ambito della ricerca in Olanda? È un paese che ne offre molte? Sì, ci sono moltissime opportunità, sia da un punto di vista più tecnico l'Olanda sta andando molto bene a livello di quantum physics o circular economy, quindi tutto ciò che riguarda l'aspetto più sostenibilità. In questo basta andare sul sito delle università tecniche, in Olanda ce ne sono diverse, da Delft, c'è quella di Eindhoven, sono anche molto valide. Andare lì e spesso si aprono posizioni per contratti sia da ricercatore che come posizioni più come PhD, se ne possono trovare parecchie. Sui contratti, che tipo di contratti vengono offerti, anche a livello di compensazioni economiche? Sì, questo qui è un tema interessante, penso diverso dall'Italia. Qui in Olanda il PhD è trattato come fosse un contratto vero e proprio, quindi non è un titolo di studio, è sì un titolo di studio ma si lavora come se fosse un impiegato normale. E per quanto riguarda questo, c'è un discorso molto interessante per coloro, chiunque possieda un master degree, si può avere uno sconto sul proprio stipendio per il 30% per 5 anni, e ciò facilita l'ingresso di talenti in un paese come l'Olanda. Cambiamo settore e ti chiedo come avviare un'impresa o una startup in Olanda. È davvero così facile come si dice? Sì, è un discorso molto facile. Generalmente si passa per un sito più istituzionale come quello della Camera di Commercio, e lì si scaricano dei moduli e in pochissimo tempo, davvero, diciamo in un quarto d'ora, 30 minuti se quel giorno c'è la fila, adesso col Covid penso si faccia tutto online, si può aprire già la propria partita IVA. È un discorso molto molto veloce. Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Tommaso Troiani, 32enne imprenditore innovativo in Olanda, dopo un'importante esperienza nel settore della ricerca. Tra opportunità nel settore accademico dei Paesi Bassi e spazi di manovra disponibili nell'ecosistema startup locale, Tommaso oggi ci sta fornendo un vero e proprio manuale pratico per aprirvi una vostra base a Rotterdam e dintorni. Riprendiamo allora l'ascolto. Generazione Mobile. Per le startup, quali sono i settori che vanno per la maggiore in Olanda? Ah, ci sono diversi settori che stanno andando bene. Per quanto riguarda la parte tech, ovviamente, a parte le solite AI, quindi machine learning, tutto ciò che riguardi la gestione dei dati, c'è un discorso molto interessante dal punto di vista del green. Quindi sia da aziende, settori più tecnici, quindi strutturali, ad esempio creazione di case particolarmente sostenibili, sia aspetti più soft, quindi idee imprenditoriali come piattaforme per la gestione di materiali e così via. Poi in una città come Rotterdam c'è il porto. Il porto di Rotterdam è uno dei porti più grandi al mondo e ciò quindi offre parecchie opportunità di business per qualsiasi idea che possa migliorare il porto, la gestione del porto. Tommaso, quali sono i principali incubatori di startup a Rotterdam e anche come approcciarli? Ce ne sono diversi, ci sono sia quelli più connessi col sistema universitario, e in questo ce ne sono due importanti, cioè sia quello di Delft che è quello di Rotterdam. Ultimamente si sono messi insieme, quindi combinano da una parte il meglio dell'ingegneria olandese, dall'altra il meglio del business olandese, quindi questo è un discorso molto interessante. E poi ce ne sono anche più alcuni, diciamo, gestiti da privati più specifici, magari da un punto di vista più, appunto, c'è un incubatore molto importante per il porto di Rotterdam, di conseguenza tutti coloro che hanno delle idee per migliorare il porto possono mandare la propria idea, la propria candidatura. Spesso basta che sia un'idea che abbia senso, che abbia delle gambe, o magari, appunto, se l'azienda è già strutturata, quindi con dei clienti, con un po' di validation, è ancora più interessante potersi trasferire. In un flash hai dei siti da indicarci per coworking, incubatori, associazioni specializzate in startup? Da questo punto di vista ce ne sono parecchie. Allora, sia a livello universitario c'è quello di Delft, quindi basta cercare l'incubatore di Delft, la TU Delft, l'università, e lì si va per l'incubatore con una breve ricerca, e sia l'incubatore di cui parlavo precedentemente per il porto, si chiama Port Startup, e lì si accedono tutti i vari moduli. Mentre dal punto di vista più generale ci sono dei siti, ovviamente tutti fortunatamente in lingua inglese, dove si parla dell'incubatore olandese, quindi si presentano i vari incubatori e si presentano anche delle realtà connesse, tutte le aziende di conseguenza. Vita in Olanda, il costo delle affitti sta aumentando, non solo ad Amsterdam. Allora, quali sono i tuoi suggerimenti pratici per cercare casa a Rotterdam senza dilapidare un patrimonio? Consiglio sempre di passare attraverso siti che abbiano, diciamo, che siano seri, perché purtroppo si sentono anche di truffe, spesso magari a discapito di giovani che arrivano, si fidano di un sito poco, dove non c'è tanta serietà, si manda già la propria caparra soldi in anticipo e poi non si vede niente. Quindi consiglio di passare verso siti più istituzionali. Se si va sul sito della città di Rotterdam c'è una lista con tutte le possibili soluzioni. Un'ultima cosa, i benefici fiscali in Olanda riservati agli expats, quali sono? Come dicevo prima, questa legge del 30%, come si chiama, vale sia per i dottorandi, quindi persone che hanno un master degree o quant'altro, ma anche per expat in generale che si trasferiscono in Olanda. Quello che conta è che appunto si abbiano delle competenze un po' specializzate, ma per questo basta addirittura un master degree. E di conseguenza si applica questa legge del 30% che consente che per i prossimi 5 anni il 30% dello stipendio viene retribuito senza tasse. Allora Tommaso, ringraziandoti per i tanti consigli pratici che ci hai regalato in questa mezz'ora, l'ultima domanda, quella di rito: quale primo consiglio pratico daresti a un giovane coetaneo che sta pensando a un espatrio? Io consiglio ovviamente di cercare su internet, magari chiedere magari a persone come me che hanno già fatto questo passo. Però quello che è importante è che si parta sempre da un desiderio. Bene, lasciamo Tommaso e spostiamoci alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Anche questa settimana Alessio Romeo, fondatore di Face for Job ed esperto in digital innovation e processi di HR transformation, ci porta a scoprire i trend lavorativi del momento e le migliori offerte di impiego in Europa e nel mondo. Ascoltiamo subito cosa ha da dirci. Oggi dedichiamo la rubrica ad un settore, quello dell'industria aeronautica, che sta subendo un forte impatto a causa dell'effetto Covid, in quanto il trasporto aereo ha risentito enormemente dello stop dei viaggi per lavoro e vacanze, ma da un altro punto di vista sta imboccando una strada profondamente trasformativa. Se infatti andiamo a leggere tutto ciò sotto forma di opportunità di lavoro mappate a livello globale, vediamo proprio che i due colossi più rappresentativi del settore, Boeing e Airbus, assumono e non poco. Airbus presenta ben 397 vacancies sulla propria pagina istituzionale Careers, mentre Boeing quasi il doppio con 719 offerte di lavoro disponibili. In questo particolare momento l'effetto di questa ondata di assunzioni, che normalmente in colossi come questi è dettata da un mercato in crescita, oggi invece è dovuta a due fattori principali. Il primo è un fisiologico turnover ancora più accentuato, dettato da una paura dei lavoratori dipendenti che, con maggiore incisività del normale, si guardano intorno per rivendersi in altri settori dove la loro professionalità è molto ben riconosciuta. Quindi semplicemente un ricambio di posti vacanti che si liberano. Dall'altra invece un momento che, proprio per la congiuntura del fermo obbligato, permette di investire in sviluppo e upgrade di prodotto e tecnologia, detto in estrema sintesi, e quindi è l'occasione per guardare al futuro in ottica sempre più di maggiore efficienza e sostenibilità. E allora andiamo a scoprire rapidamente come si articolano queste opportunità di lavoro sparse per il mondo. Airbus, con le sue quasi 400 offerte, spazia innanzitutto in tre macrofamiglie parte del gruppo: 95 proprio Airbus, 279 Airbus Defence and Space e 23 Airbus Helicopters. Il 40% delle proposte sono in ambito engineering, mentre seguono quelle in ambito IT management, digital tech e security, con ben 86 vacanze. E poi tutte le altre spalmate nelle varie divisioni, da finance a quality, da manufacturing a test e supply management, marketing, customer service, corporate governance e solo una in ambito HR a Tolosa in Francia. Infine, andando alla distribuzione geografica delle offerte, la metà sono proprio in Francia, UK con 66, Germania 81, Spagna 27, Belgio, Giappone, Marocco, Qatar, Singapore e anche 5 in Italia. Boeing invece presenta 719 opportunità, di cui 603 in US, 48 in UK, Australia 37, Canada 5, Germania 2, Ungheria, India, Kuwait, Qatar e Ucraina. E seguono Olanda e Polonia. Gli ambiti anche qui sono tra i più svariati: 111 offerte in ambito DC Metro Region, 89 per ingegneri elettrici e elettronici, 425 per altri indirizzi ingegneristici, di cui un centinaio con specializzazione flights. Infine, in ambito IT ne abbiamo 23 e via via tutte le altre divisioni. E siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Oggi vi portiamo alla scoperta di un'associazione di italiani in Canada. Per la precisione andremo a Toronto, la più italiana delle città canadesi. Insieme a Cristiano De Florentis, fondatore e co-presidente dell'associazione L'Altra Italia, vi spiegheremo cosa fanno questi nostri connazionali all'estero e vi regaleremo qualche dritta utile qualora voleste partire per il Nord America. Esisteva un forte associazionismo in Canada, a Toronto in particolare, che è la città più italiana in questo paese, però era un associazionismo in cui era difficile per noi trovarsi, perché evidentemente c'erano delle esperienze diverse, erano persone arrivate 40 anni prima, e quindi cercavamo un rapporto contemporaneo con il nostro paese, non un rapporto basato sulla nostalgia. Di cosa vi occupate concretamente? Adesso l'associazione ha oltre 1500 soci, quindi è un'associazione che è diventata molto grande. Principalmente facciamo molto cinema italiano, ma ovviamente anche eventi che sono differenti, no? Gastronomici, concerti, ecco tutto quello che può essere portare un po' d'Italia in questo paese. Andiamo sui consigli pratici che voi stessi offrite ai giovani italiani che arrivano e cercano un orientamento. Partirei brevemente dai visti. È difficile avere un visto per il Canada? Sì, sembrerebbe il Canada da fuori un paese in cui è facile entrare. Beh, non è così facile entrare in Canada. Sì, è competitivo riuscire ad ottenere il visto per entrare in Canada. E per noi italiani purtroppo è molto competitivo, perché la lingua è uno dei fattori molto importanti per entrare in Canada, per avere un visto, per stare qui o una residenza. A livello di opportunità professionali, una volta conseguito il visto, quali sono i settori più interessanti, più attrattivi a Toronto? Beh, Toronto è una città ancora in piena espansione sotto tanti punti di vista e quindi... beh, certo, noi italiani è vero, siamo bravi a saper cucinare, eccetera, eccetera. Infatti molti italiani arrivano qui anche perché la ristorazione italiana va molto come nel resto del mondo. Però sono settori anche informatici che tirano molto, le costruzioni. Sicuramente è una città in via di sviluppo, quindi ancora a livello edilizio. Quindi quel settore è sicuramente importante, medici. Architetti, no, c'è ovviamente possibilità in tanti settori per un giovane italiano che vuole venire a lavorare in Canada. Ripeto, è molto competitivo. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.l'altraitalia.org. Chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazione Mobile. Ricordate di scaricare i nostri podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24. Questo vi permetterà di recuperare tutte le informazioni utili che potreste esservi persi nel corso della diretta. Internet Point resta la vostra rubrica di riferimento. Ogni ultimo sabato del mese portiamo le vostre lettere in onda. Avete domande da porre sull'espatrio, consigli utili da chiedere o testimonianze personali da offrire? Beh, scriveteci generazionemobile@radio24.it. Infine, la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, giovani tra i 18 e i 40 anni che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza, raccontare la vostra storia, ma soprattutto dare consigli utili ai vostri coetanei che in Italia vi ascoltano? Fate parte della nostra Generazione Mobile, scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi è davvero semplice, scrivete a generazionemobile@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Generazione Mobile, aspetto dunque i vostri contributi via email e vi ricordo anche che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.